Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Penso che in queste competizioni sia basilare fare turnover, altrimenti non si arriva lontani. È normale che poi quando il risultato non è positivo e perdi una partita così importante e viene fuori tutto, le responsabilità, come giusto che sia, sono le mie, perché sono io che faccio le scelte, sono io che cambio i ragazzi che tre giorni fa erano in campo e che hanno vinto. Mai facile giocare tutti magari quando sono tutti questi cambi, perché non siamo abituati a giocare insieme tanti di noi, però io penso che siamo tutti degli ottimi giocatori, che abbiamo, tanti di noi abbiamo tanta esperienza, hanno tante partite sulle gambe quest'anno in Serie A, e quindi dovevamo dare forse qualcosina in più sotto il punto di vista fisico e di cattiveria, che è quello che ci è mancato oggi. Quindi ho tantissime responsabilità, se non tutte. È evidente che quando le cose vanno bene mi fa degli elogi, e quando vanno male no. Non ho mai avuto paura in questo senso a prendermi le responsabilità, quindi puoi scrivere tranquillamente, è tutta colpa mia. E beh, flop, fracasso di una nazionale under 21 che forse avevamo incensato troppo in fretta, sotto accusa al turnover di Biagio, ma era davvero necessario dopo una partita in un torneo tra l'altro così breve. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno, sto guardando il basket. Stai guardando il basket femminile? Tu, vero? 1,55 da giocare meno 10, dai. 1,55 da giocare meno 10, ah, vedo dura, durissima. Contro il Belgio a quest'ora, sì, durissima. Però siamo lì. Europeo femminile, naturalmente. Certo. Anche Mario Beretta, nostro amico, ora responsabile giovanile del Cagliari, sta guardando ovviamente la nazionale di basket femminile in diretta, no? Forse sta Poeto. Dove sei? No, al Poeto, ma non sto guardando la nazionale femminile. Dove sei? No. Sono a Cagliari al centro sportivo. A Cagliari a lavorare, sì, come sì. Tutti i giorni al Torchio. 72-64, Mario, no, cosa ma ti interessa? Avevamo rubato. Ma cos'è questo interesse di Pardo per l'Europeo femminile di basket? Ho qualche sospetto. Vabbè, comunque. Che sospetto hai? Ho qualche sospetto, ma me li tengo per me. Intanto ti faccio un saluto particolare. Proviamo a fare i seri. Mario Beretta, tutto quel turnover era necessario? Questa nazionale under 21, che era quella delle promesse vere o dei giocatori già pronti per la nazionale maggiore, che va a giocarsi l'europeo. L'altro giorno parlavamo con Michele Uva e abbiamo azzardato l'ipotesi, ci aspettiamo questo trofeo che adesso diventa praticamente impossibile. È chiaro che oggi sul banco degli imputati va Gigi Di Biagio, però insomma è un peccato vedere questa nazionale non mantenere la promessa. Mi ricordo un po' da lontano, se vuoi per suggestione, la finale di Champions League. Ma sì, mi dispiace, perché in effetti è una squadra che ha una grande qualità, forse per la prima volta da un sacco di anni, forse non c'è mai stata una nazionale dove under 21 con tanti ragazzi che giocano titolari nei propri club di Serie A. Appunto. Però al di là di questo, diciamo in questo momento da ex allenatore, quindi in tanti momenti, sì, sicuramente Gigi Di Biagio ha fatto delle scelte. È ovvio che se vinceva, tutti dicevano che è stato grandissimo a fare il turnover, e quindi ha perso, e quindi è un incompetente, diciamo così. Forse ha fatto un errore. Ha fatto un errore, ecco, però è chiaro che l'allenatore sceglie in base a quello che vede l'altra settimana, ha fatto sicuramente delle valutazioni, ha fatto delle valutazioni e non solo in funzione di quella che è stata la partita precedente, magari ha fatto delle valutazioni dal punto di vista anche fisico-atletico, in virtù anche del fatto che poi deve giocare con la Germania. Alla fine della fiera non ha neanche fatto giocare gli ultimi arrivati. No, no, insomma, per carità. Ecco, ci sono, però Petagna, dice, abbiamo fatto fatica a trovarci con tutti questi cambi, lo dice chiaramente. Sì, quello di sicuro, molte volte sono anche, ogni tanto anche da parte dei giocatori, sono anche degli alibi per nascondere magari delle altre situazioni. Poi Gigi è stato bravissimo perché si è preso tutte le responsabilità, anche giustamente per preservare il gruppo alla vigilia, anche comunque di una partita ancora comunque importante, che ci può dare ancora la possibilità di qualche possibilità di poter andare avanti. Quindi secondo me questa è stata la grande onestà intellettuale da parte di Biagio. È chiaro che adesso è sul banco degli imputati, come tutti gli allenatori che non vincono. Pierluigi, cosa ne pensi? No, penso, guarda, io sono deluso, ti dico la verità. Siamo tutti delusi. Mi vengono in mente due suggestioni. La prima è legata al famoso Europeo del 96, alla scelta di Sacchi, che dopo aver vinto la prima partita contro la Turchia, fece turnover nella seconda e poi nella terza dovevamo battere la Germania 0-0 con rigore sbagliato Zola. E la seconda invece, non so, forse perché il calcio parte si intreccia, ma che abbiamo tanto talento in questa nazionale under 21, però non sempre la somma del talento poi crea una grande squadra. Ti viene in mente la nazionale di basket dei Berinelli, Bargnani, quattro fenomeni che abbiamo, insomma, che sono comunque quattro giocatori che quando mai avevamo avuto quattro giocatori in NBA, vabbè che adesso è anche più facile ovviamente per gli stranieri arrivare in NBA, però quattro giocatori da NBA non ce l'avevamo mai avuti, però non sempre, insomma, le grandi squadre si costruiscono per accumulazione di talento. Certo, credo che il tema vero di ieri sia stato anche il molto turnover. Poi, insomma, se volete, prima o poi credo che dovremo parlare di Donnarumma, che certamente non è stato impeccabile. Ecco, no, non è stato impeccabile ieri, no, Mario, tecnicamente. No, sicuramente poteva fare qualcosa di più. Diciamo che tutto quello che sta succedendo intorno a lui sicuramente non l'aiuta. No, basta, uno può essere. Tutto quello che sta succedendo intorno a molti giocatori di quest'anno. Sì, certo. Quindi, però diciamo che lui forse è un po' più nell'occhio del ciclone, comunque parla sempre di una ragazza di 18 anni. Molte volte non si dimentica questo, cioè, noi dimentichiamo da fuori, diciamo, da addetti ai lavori a volte, da tifosi e per altri, dimenticano che alla fine sono ragazzi di 18 anni che non hanno ancora raggiunto una stabilità caratteriale, emotiva e quant'altro, e non è facile, bisogna anche accettare che abbiamo delle debolezze. Sì, certo. E magari fare anche degli errori. Perché uno pensa che siccome Donnarumma non può più sbagliare. No, ma per carità, può sbagliare a tutto lo spazio e il tempo. Ecco, ha sbagliato perché da allora... Ha sbagliato e sbaglia anche Buffon, per quello. Quindi bisogna accettarlo, a maggior ragione nei ragazzi giovani. Questo non fa una piega, però il discorso che faceva anche Pierluigi è che sembrava comunque una nazionale, cioè un under 21 già matura per fare il salto in molti dei suoi interpreti e protagonisti. Ma quello di sicuro forse non è così. Probabilmente ieri abbiamo imbroccato anche la giornata sbagliata, e come si sa, nel momento in cui in questi gironi sbagli una partita vai subito in difficoltà. Però è chiaro che se dopo l'esordio con vittoria c'era qualche aspettativa in più, è che molte volte noi forse ci aspettiamo anche di più di quello che si possa dare, perché siamo partiti ancora prima che cominciasse il torneo dicendo questa nazionale va in finale, potrebbe vincere. Sì, insomma, è come diciamo la Juve, è partita per Cardiff dicendo come fa a perdere questa squadra così solida. Sì, però peccato che giocava contro Real Madrid. Questo già però è un tema, perché è un tema, sì. Non sono un grande esperto ovviamente di Under 21, sicuramente la caratura della Repubblica Ceca è buona, però insomma la sensazione è che noi la partita importante lo dovessimo giocare con la terza partita contro la Germania. Adesso siamo appesi a una veramente a un algoritmo, ma cioè una roba, una roba complicatissima. Dobbiamo vincere con 3 gol di scarto oppure dobbiamo vincere 3-1, insomma è veramente, veramente algoritmo molto complicato. Che non vale più per le ragazze del basket femminile. Piero, puoi cambiare canale. 7-9-6-6 per il Belgio nei quarti di finale. Italia fuori dall'europeo. Io saluto e ringrazio Mario Berrette, che spero di sentire al più presto, perché quando, è un po' che non sentiamo. Quando vogliamo, è una promessa, convocato. Vabbè, ciao. Grazie, ciao, ciao Marione. Ciao, ciao, Pier, ti anticipo il tema che tratteremo con Pierpaolo Marino. Allora, mi sembra sia in atto, sempre a proposito di giovani, ma questo a livello globale soprattutto, vabbè, i soliti inglesi lasciamo stare, mentre è in corso un colloquio tra Moncero e Zenit per la cessione di Manolas, è un'ultima ora. Mi sembra sia in corso la caccia al nuovo fenomeno, al nuovo Ronaldo. Si parla di cifre spropositate per giocatori. Mbappé su tutti, ma poi ce ne sono molti altri che in fondo sono molto giovani e hanno una grande stagione alle spalle, sulle spalle. Si attendono conferme. Possono arrivare, possono non arrivare. Ne parleremo tra poco. Traffico. Convocati. Tutti convocati. Dunque torniamo, Pierluigi Pardo ovviamente con noi, ma di casa, no, questa non è una notizia, sempre un saluto particolare e aspetto anche quelli degli ascoltatori, 800 24 00 24 è il numero verde, ci potete vedere anche su, in video sulla pagina Facebook di Tutti Convocati o... No, sulla pagina Facebook di Tutti i Convocati, sul sito di Radio 24. Boh, basta, ho detto giusto, Giorgio Lucas. Un saluto particolare anche a Pierpaolo Marino. Ciao direttore. Ah, buon pomeriggio. Quanto tempo che non ci sentiamo? Come va? È colpa vostra, non è colpa mia. Come no? Ma se sei sempre in vacanza, sei sempre in vacanza. No, direttore. No, comunque sapete che anche in vacanza mi siete cari. Bravo, bravo. Bravo, non sbagli un colpo, bravo. Non sbagli un colpo, direttore. Grazie. Mentre Montella va a casa a trovare i genitori di Gigio Donnarumma, Marca scrive: accordo verbale Gigio e Mbappé al Real Madrid. Va, vediamo. Ma io volevo partire da un altro argomento, poi a questo ci arriviamo con Pierpaolo Marino. Allora, siamo delusi tutti per l'Under 21 di ieri sera. Non so se abbiamo sopravvalutato questi giocatori dopo una stagione, però in quello spogliatoio Donnarumma su tutti, poi Conti, Bernardeschi, Berardi, valutazioni alte, tutti sul mercato, e insomma qualcosa può aver giocato, no? Nel flop di ieri sera, secondo me può aver giocato molta presunzione, sì? Perché si era creata troppa presunzione di chi, scusa direttore? Presunzione di tutto l'ambiente della squadra. Perché in realtà secondo me l'impegno con la Repubblica Ceca è stato sottovalutato dalla squadra. Sì. Perché sai, tu affronti l'Under 21 di una nazione che pur producendo qualche volta degli ottimi calciatori, però non ha tradizione a livello di nazionali, e sei una squadra che è una vera e propria corazzata Potiuschi, quindi, quando arriva poi un risultato, uno schiaffo di questo genere qui, vuol dire che la presunzione l'ha fatta da padrone, la superficialità che si è vista, cioè sinceramente non me l'aspettavo, perché no, nessuno. Come? Non me l'aspettavo perché, come tutti noi, perché comunque qualcuno deve essere colpevole di questo, e secondo me l'è stato l'ambiente intorno alla nazionale e i giocatori stessi, perché diciamola tutta, se non hanno solo sottovalutato ieri questo impegno, allora, perché non è come la Juve che perde con Real Madrid in finale di Champions League, quello che diciamo prima, cioè, è una sconfitta per inferiorità tu tecnica. Prendi quest'Under 21 qui, se la metti in un campionato di Serie A deve lottare per la Champions League, lo diciamo adesso, allora siamo davvero presuntuosi, no? Se è davvero presuntuosi. No, ma la presunzione sta nell'arco della giornata di ieri, cioè, i valori, io sono sincero, cioè ieri sera l'Italia Under 21 è stata una Ferrari che è andata come una 500. Hai capito, pardon. È un po' il discorso che facevamo prima sulla musica al basket, premesso che ovviamente da questa, no? Dai quattro tenori e dagli altri ci aspettiamo ancora molto, no? Del basket, però sì, appunto, che la somma del talento non sempre fa la grande squadra, e mi è sembrato, mi fa piacere, mi conforta, perché io veramente per i primi 14-15 giocatori di questa Under 21 c'è una qualità diffusa in tutti i reparti che non so, mi sembra da un punto di vista generazionale erano 15 anni, certo, generazione pre-Italia 90, certo, cioè, esatto, da quella di Viale Mancini, no? Da quella di Vicini, poi scusate se vi interrompo, do un maggiore supporto alla mia tesi, cioè può accadere questo in ragazzi che poi sono under 21, anche se poi under 21 non lo sono, perché qualcuno di loro è anche 22enne, grazie naturalmente ai regolamenti, e quindi l'errore di superficialità a quell'età lì, dove non, in una squadra dove non ci sono le cosiddette chiocce come in una squadra di club, che sai, ti indicano i giocatori che conoscono il DNA della squadra, ti indicano il percorso per non fare errori di presunzione o di superficialità, e l'ambiente intorno a questa squadra che deve darti deve farti evitare che accadano questi incidenti di percorso. Comunque la cosa è chiarissima, la nazionale ha deluso tutti. Amara lezione che va digerita, e qualcosa va anche perfezionato, perché se non vai in finale in un europeo con questo squadrone, qualcuno avrà sbagliato qualcosa. Sì, si è presa la colpa di Biagi per un turno discutibile, da dirigente mi sono state delle colpe nelle mie gestioni per quando non arrivavano i risultati. Questo è chiaro. Allora vorrei allargare un po' il discorso a questo. Pierluigi Pardo, ovviamente frequentatore della Champions League come telecronista, ne conosce ogni anfratto. Allora, mi sembra sia in atto la corsa, ti dicevo prima, Pier, al nuovo Ronaldo, perché si leggono delle valutazioni pazzesche. Lasciamo stare gli inglesi che sono pazzi, sono fuori mercato, però ci sono delle valutazioni impressionanti per dei giocatori che in fondo hanno un anno di una buona stagione sulle spalle, primo tra tutti Mbappé, ma possiamo fare la lista. Anzi, a proposito, ne ho una divertente, se la trovo, non la trovo più, dei 50 migliori prospetti secondo Telegraph. Il primo è Mbappé, poi Gabriel Jesus, pensa che l'undicesimo è Gabigol, e questo dice diverse cose, però Asensio, Dalelli, eccetera eccetera, insomma, mi sembra sia in atto questa corsa al nuovo Ronaldo, alla caccia al nuovo Ronaldo o al nuovo Messi. Sì, però, insomma, è in linea secondo me con quello che è successo, cioè Mbappé sembra qualcosa di completamente diverso, cioè, Pedro, penso che la terza per Paolo, mi sembra un giocatore che per rapidità, per il mix di rapidità e tecnica che ha, veramente ha dei valori. Aspetta che ti richiamo, Pier. Pierluigi Pardo, lo richiamo qualche problema di disturbata. Posso già cogliere. Dimmi, direttore. Mbappé è un giocatore che ripercorrerà sicuramente la strada dei Messi, dei Ronaldo, quindi sicuramente possiamo già dirlo sicuramente. Beh, ma se io non mi prendessi questa responsabilità quando opero nel calcio, dire sicuramente io ti credo, però anche Dybala nuovo Messi. Ma Dybala è un discorso un tantino diverso, perché Dybala, che è un ragazzo che io avevo comprato all'Atalanta, quando giocava in Serie B in Argentina, poi per il solito discorso dei nuovi padroni del calcio, gli squali dei procuratori. Gli squali dei procuratori, sì. Non si è concluso, perché poi il Palermo l'ha pagato dopo sei mesi, quattro volte quello che lo avremmo pagato noi. Sì. Volevo dire, Dybala però non ha la completezza e la fisicità richiesta da quel giocatore. Dybala si avvicina a Messi in questo momento qui, secondo me è sulla buona strada per poterlo diventare, ma può anche non diventarlo, però per le caratteristiche che ha Mbappé mi dà l'impressione di avere tutte le qualità che questo calcio è un nuovo crack, insomma, sì, è un nuovo crack. Questo calcio moderno richiede, cioè dove è vero possono emergere anche elementi non fisici, ma quelli con la fisicità e con altre determinate caratteristiche che Mbappé le ha tutte, può essere veramente un crack. Senti, a proposito di squadre, però per volevo dire, dimmi, valgono per Paolo. Tanti soldi, scusa se ti dico, perché in realtà sono così pochi i giocatori che ricordano questi top player che fanno le fortune di una squadra. A me sembrano un po' degli all-in, perché Martial ad esempio è stato pagato un sacco di soldi allo United. No, ma poi si sbaglia, sbaglia anche. Mi sembra che giochino un po' degli all-in sul futuro con un sacco di soldi. È tutto proporzionale, perché se un giocatore di quel livello, il Real Madrid, Cristiano Ronaldo, sembrerebbe che lo valuti 300-400 milioni. È chiaro che è tutto proporzionale, perché se uno ne investe molto meno e poi ci azzecca, è chiaro che ha fatto una plusvalenza straordinaria. Ad esempio, secondo me Schick è un buon affare. Ottimo. Schick alla Juve mi sembra comprato molto bene. Nel rapporto qualità-prezzo è un affare. Bisogna fare solo che i complimenti a Marotta e Paratici. Sì, qui lì nasce secondo me anche proprio dalla forza che in questo momento la Juve ha agli occhi dalla dei pille giocatori. Anche, no? Che la forza. La pille e la forza economica. La pille, certo, perché comunque alla fine oggi un ragazzo così giovane di prospettiva che può scegliere. La Juve in tre anni ha fatto due finali di Champions League. Questo agli occhi di uno straniero, anche se in Italia, di un giovane straniero, non è che è una cosa secondaria, perché dice: io quantomeno in questa squadra ho buone possibilità di percorrere una passarella europea importante. E poi è quella che ti aumenta gli ingaggi. Grazie direttore. Buon lavoro, grazie a voi. Grazie direttore. Pier, ci sentiamo dopo la borsa con te. 800 24 00 24 per chiamare. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Tutti convocati. Claudio da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a voi. Sarò breve e veloce. Io volevo intervenire sull'Under 21, sì, perché sostanzialmente io guardo il calcio e sento dire da tutti i media, da tutti gli opinionisti, che questa era la migliore Under 21 da non si sa quale tempo, forse la migliore di sempre. Ho sentito anche le vostre dichiarazioni in merito al fatto che forse sia un po' esagerato. Io volevo soltanto ricordare che c'era un Under 21 formata dai Mancini e Vialli, sì, ce la ricordiamo, che indubbiamente hanno fatto forse la storia dell'Under 21. Credo che questi calciatori, prima di essere etichettati come campioni già con cifre iperboliche, 40, 30, dovrebbero cominciare a fare qualche carriolata di gol che ha fatto il signor Bobo Vieri, il signor Gianluca Vialli, il signor Roberto Mancini, che bastava mettere di fianco il Gabibbo e diventava capocannoniere. Cioè, io la vedo così, non so cosa ne pensate, vi ringrazio e buona giornata a tutti. No, ma lei in parte ha ragione, più che altro servono delle conferme, perché una carriolata di gol ad esempio l'ha fatta anche Belotti in questa stagione, poi Vialli e Mancini ce li ricordiamo bene, ma si sono confermati poi nel corso della carriera, quella fu l'ossatura della nazionale predestinata che poi giocò Italia 90 con gli esiti che conosciamo. Detto questo, è chiaro che servono sempre delle riconferme. Se sei un under 21 che ti chiami Vialli, Mancini, Totti eccetera eccetera, poi in alcuni casi le conferme sono arrivate, in altri casi no. Antonio, provincia di Isernia, buongiorno. Buongiorno, no, a dire la verità chiamo proprio da Isernia proprio. Ah, proprio da Isernia, senza provincia, sì. Isernia centro. Sì, sì, dica. Isernia centro e Isernia è capoluogo, sì. Sì, sì, lo so. Dica. Ecco, volevo dire due cose precise, signor Genda. Dica. Ecco, allora, la prima per quanto riguarda Donnarumma, perché secondo me, ma non solo secondo me, e questo lo sanno credo anche le pietre, è proprio il caso di dirlo, perché Donnarumma, essendo appena diciottenne, quindi ragazzo, si è fatto molto influenzare dal suo procuratore Raiola. Questa è la, cioè io penso che qui penso che dico una cosa molto condivisibile. Ecco. No, condivisibile. Ecco, allora, però, adesso la condividiamo, un attimo, prego. Sì, dica. Un attimo solo, signor Genda. Poi volevo dire la seconda cosa, magari non so se la posso dire adesso o dopo, però. No, la dica subito. Ecco, volevo sapere perché nel Milan, diciamo cinese, in questa nuova proprietà, perché sono stati scelti, diciamo, decisi Fassone e Mirabelli e non per esempio per Paolo Marino che ha parlato prima che ha grandi capacità e non altri dirigenti. Beh, ecco. Queste scelte societarie, comunque Fassone è un uomo di provata esperienza, però ne approfitto su questi argomenti, Pierluigi Pardo, per introdurre Ugo Conti. Ciao Ugo. Buongiorno a voi. Come stai? Siete al fresco, sono praticamente sotto la vostra sedia perché io abito. Allora sai, vieni su. È che devo andare a fare la spesa, andare a prendere le bambine da ripetizione, per cui è una giornata travagliata per me. Vabbè, ma un giorno sali Ugo. Quando me lo ricordate io salgo volentieri, poi per vedere quella bella persona di Pierluigi, per l'amore. Anzi, devo fare i complimenti per la tua performance ieri sera. Buona la prima. Naturale, Franco, loro sono veramente due fenomeni. Tra l'altro hanno un derby, è un derby sullo stesso palcoscenico, uno è interista e l'altro è milanista. No, come la vedi? Come ti dirà Donnarumma, Ugo? Oramai hanno detto tutti le stesse cose, che è una cosa che è stata gestita male. Lui, perché è giovane, ha come procuratore la persona più elegante del mondo, secondo me, perché Mino Raia è l'uomo più elegante del mondo. Gli hanno sbagliato a consigliarlo, i genitori, i poverini, non ne capiscono nulla, e lui si è trovato in mezzo. Oltretutto, a questo punto è anche l'unico che ci può rimettere, perché già ieri sera ha preso dei gol che secondo me non aveva nessuna colpa, però già hanno detto Donnarumma non al meglio, questo ragazzo rischia veramente di rovinarsi, perché se sbaglia due partite comincia il massacro psicologico. Bravo, sì, questo tutto... l'abbiamo detto diverse volte. Non so se hai sentito cosa ha detto invece l'ex presidente Silvio Berlusconi, queste cose. Farei di tutto per non lasciarlo partire, però bisogna anche capire un ragazzo che, finendo il suo contratto con una società che ormai è una società di professionismo assoluto, ha la possibilità di andare a una squadra e di guadagnare lui e la sua famiglia 100 milioni, beh, io mi domando chi, trovandosi nella sua situazione, non si comporterebbe come lui. Dopodiché ci sono i motivi di cuore, il bacio alla maglia, le capacità di convincimento che io credo di avere in una certa misura. Quindi probabilmente io avrei trovato una strada di mezzo, per garantirgli di stare ancora qualche tempo al Milan e poi di andare a fare il grande colpo della vita. Come si dice a Milano, te capì, Pardo. Bravo, capì. No, in realtà è vero, però non ho, mi avete preso un po' in giro, non so se era un imitatore o fosse veramente... No, era lui, sicuramente ci fossero ancora Galliani e Berlusconi, questa situazione non si sarebbe mai creata, perché adesso questa società che sta anche spendendo bene, devo dire, manca un punto di riferimento. In tutte le cose, se non hai un punto di riferimento, poi capito, va tutto in malora. Speriamo di no. Più che altro per lui, perché è giovane, hai capito, e quindi ed è molto bravo. Però lui se sbaglia, se lui non ferma col Milan, oppure non si trova in una situazione che vada bene a chiunque, lui secondo me se sbaglia due partite è chiaro, sì, se va per dire al Real Madrid dove hanno fischiato anche Cristiano Ronaldo, la pressione è alta. Poi detto questo, a 18 anni forse fa bene a mettersi nelle mani del procuratore squalo, è il discorso che facevamo tanti giorni fa, ancora prima del clamoroso strappo, ed è il tema banale ma secondo me decisivo, cioè la condivisione, la sintonia che ci deve essere fra un calciatore e il suo agente. Perché in questo ore leggiamo, ho letto per esempio Curroggi su Repubblica, che la famiglia starebbe pensando di chiedere a Raiola, cioè queste robe qui vanno decise. Se tu prendi Raiola come procuratore e ti affidi a 18 anni a Raiola, sicuramente ti affidi a uno bravo, perché Raiola chi ha deciso di mandare Donnarumma a Raiola? Saranno stati anche i genitori, che Raiola sarà andato lì a casa dei genitori promettendogli chissà ma non cosa. C'era. Vabbè, ma sappiamo queste tutti, cose, dai, non è che dobbiamo devi poi la possibilità raccontarle noi, me. Hai capito? Devi avere la possibilità anche se io Raiola non gli darei neanche il mio cane in gestione, hai capito? Detto, devi avere la possibilità anche se hai soltanto 18 anni di poter comunque dire veramente c'è chi dice no, cioè di poter anche dire comunque il tuo parere, la tua opinione, ammesso che l'opinione di Donnarumma sia realmente questa, ma probabilmente non si aspettava la tempesta mediatica, i social network e tutto quello che è successo in queste ore. Se non se lo aspettava è ingenuo cioè, perché l'avesse fatto in qualsiasi squadra italiana al di fuori delle 3-4 big non sarebbe successo nulla, ma l'ha fatto al Milan, dove hai capito, dove è una società, è un club che è seguito in tutto il mondo. Poi da noi queste cose non sono mai successe, questo è il fatto, questa è la cosa, senti, è la cosa incredibile, invece è capitato anche a noi. Senti Ugo, io vorrei trattenerti ancora un attimo per commentare subito dopo il traffico invece una dichiarazione divertente che non riguarda Donnarumma ma riguarda un grande amico di Pierluigi Pardo. Dammi ancora due minuti che bene, voglio sentire la tua. I love this game. Tutti convocati. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Tutti convocati. Dunque, Ugo Conti, volevo farti sentire questa dichiarazione moderata dell'amico di Pardo, Antonio Cassano. Ma se io ero fermo un anno, 15 anni fa, potevo far fatica a rientrare perché c'erano i campioni veri. Vedendo questa Serie A che si fa una fatica allucinante, vedo dei giocatori sopravvalutati in una maniera devastante, io sono convinto, anche dopo un anno che sono fermo posso ancora fare la differenza, questo ne sono convinto, una convinzione molto forte. Io sono un presidente di Serie A, perché ti dovrei acquistare? Perché sono il più forte che c'è in Italia, non è che ce ne vuol tanto per capire. Hai capito? Ugo, riprendiamolo al Milan, no? Quando sento la sua voce per come gioca questo ragazzo mi viene il magone. Io credo che sia uno dei più grandi talenti nati negli ultimi 30 anni in Italia. Però la capoccia è quello che è e non c'è niente da fare, non è che la puoi cambiare. Io sono ancora il più forte, è una dichiarazione modesta, Pardo. Ma mi fa ridere perché c'è sempre dell'umorismo. Cosa, guarda, mi hai dato lo spunto per entrare, che non hanno più i giocatori di oggi e le squadre di oggi, con quello che è successo negli spogliatoi della Juventus La finale di Champions, è inutile che dicono non è successo niente, lo sa anche il mio benzinaio, sì, c'è il filmato, hai capito, sì, di quello, sì, che è successo, sì, sì. Che sono presi con un ragazzo di 23 anni perché non giocava come sa giocare, ma la gente va aiutata col cervello e con l'intelligenza, hai capito, non va aiutata con la cattiveria e con la grinta, e lì la Juventus ha perso la Champions, perché mi pare che Bonucci se la sia preso con Dybala e dai, poi non so se l'ha perso per quello, non so se l'ha perso per quello, però no, insomma no, di no. Questo si discute. Anche, te lo dico io, quando saltano certi equilibri, non dimentichiamoci di una cosa, che non è retorica, ma è fondamentalmente è sempre un gioco dove ci si guarda in faccia, tu me la dai a destra, io vado a sinistra, e se succedono queste cose porti a casa un risultato. Se si litiga o c'è il malumore, non porti a casa una farra. E così è stato per loro. Mi spiace, ma sicuramente è successo qualcosa di analogo. Non so se Pierluigi è d'accordo su questa cosa. Ma non lo so, su Berlino. Su Cardiff, secondo me, è stato più, come dicevamo ieri con Zampini, una cosa ex post. Cioè, sicuramente è successo qualcosa di clamoroso nel secondo tempo e quindi poi c'è stata una curiosità giornalistica del provare a ricostruire cosa fosse successo. Non so se sia stata quella. Secondo me il Real Madrid ha dimostrato di essere più forte, la Juve ha sbagliato completamente l'approccio al secondo tempo, non so se sia stato il litigio. Su Cassano non credo sia il più forte giocatore del campionato, credo possa essere comunque ancora molto utile, soprattutto per una medio piccola. Per l'amore del cielo, lui soprattutto se è motivato, quello diceva Ugo è vero, cioè Antonio ha una, diciamo, un gusto, un piacere della battuta, della provocazione. Adesso io sono amico suo, quindi per carità. Tu guardi le partite di Serie A, sembrano delle telenovele di quelle brasiliane dove si piange ogni secondo. Non trovo più nessuno che ride, che gioisce a momenti, neanche quando fanno i gol. Non lo so, io credo che ci sia stato un mutamento incredibile negli ultimi anni, o forse sono invecchiato io. Siamo invecchiati un po' tutti noi. Ugo, ti ringrazio e ti aspetto quando sali, Va bene. Tanto abiti qui, vieni a trovare. Ciao Ugo, grazie. Ciao Luigi, ciao. Grazie Ugo Conti. Qualcosa da aggiungere su Cassano? Vado dagli ascoltatori. No, mi viene da pensare, a proposito di quello che diceva Ugo, poi la squadra non so se la troverà, se non la troverà. Secondo me per una piccola di Serie A o per una squadra di Serie B Cassano ancora può essere veramente tanta roba, come diciamo noi giovani. Ma mi è venuto in mente un esempio dell'ultima volta che è venuto a Tikitaka News, no? Quando ha chiesto un voto per Montella e ha detto voto 10, perché con una squadra di scappati di casa e molti milanisti si sono offesi come se fosse un'offesa al Milan. Certamente, insomma, uno che da 20 anni viene intervistato forse dovrebbe sapere che scappati di casa non si dice, si può trovare un'espressione, diciamo, un pochino più mitigata. Però è esattamente quello che diceva Ugo prima. Cioè, Antonio è uno che parla come fosse al bar, sempre che lì voleva fare un complimento a Montella e al fatto che aveva tirato fuori il meglio dal Milan, e se ne è uscito con un'espressione che ha fatto arrabbiare molti tifosi del Milan. Insomma, il concetto è sempre quello di prendersi un po' meno sul serio. Certo, ci proviamo. La nostra mission fondamentale è quella di provare a prendersi un po' meno sul serio intorno a questo meraviglioso gioco. Federico da Milano, Antonio da Salerno. Allora, comunicazione di servizio, abbiamo 3 minuti. Federico, dica. Eccomi, allora uso 30 secondi. Prego. In parte avete già coperto quasi tutti gli argomenti di ciò che avevo voluto parlare, poco male. Concludo su Donnarumma a questo punto. Sì. La fortuna a volte ciega, ma la sfiga ci vede benissimo per Donnarumma. Ieri ha fatto esattamente la partita che tutti gli stavano, tra virgolette, malaugurando da 3 settimane a questa parte, cioè la partita imperfetta. Sì. Allora, Gigio secondo me dovrebbe capire che A, deve imparare a parare sul primo palo, B, deve imparare a uscire meglio sulle palle alte, perché anche se è alto 1,90 m. Conclusione, firmasse il rinnovo, una bella clausola, fa 1-2 anni al Milan e poi andasse dove vuole andare. Noi beviamo, noi milanisti. Questa è la soluzione più logica, ma la logica non sempre esiste nel calcio. Antonio da Salerno, poi parlo, da una risposta cumulativa, poi lo saluto. Antonio. Sì, buon pomeriggio a tutti. Dica. No, io ho visto tutte e due le partite del 21. Io non credo che la squadra sia scarsa, anzi secondo me è molto più forte delle due squadre che ha incontrato, anche della squadra che ha incontrato ieri. Ma il problema di fondo era proprio l'assenza totale di gioco. E quindi questo mi riallaccio anche a quello che alla partita della Juventus piuttosto che con il Real Madrid. Cioè non è un problema solo di figurine, 11 campioni fanno la squadra, e forse lo fa vedere la squadra del mio cuore, che è il Napoli, no? Che non ha 11 fuori classe, ma fa un calcio allegro, fa un calcio dove riparte. Sì, però mi perdoni, la Juve non è una squadra di 11 figurine, ma è una squadra vera. Questa è una nazionale. Aspetta, mi faccia rispondere a Pardo, che devo salutarlo, poi andiamo in pausa. Oggi non c'è GR, c'è l'assemblea sindacale, torneremo subito. Pierluigi. Ma sull'Under 21, sì, insomma, secondo me sono d'accordo. Cioè, la più forte delle due squadre che abbiamo affrontato, sicuramente della Danimarca, però insomma. Peccato di presunzione, come diceva Marino. Sì, peccato di presunzione, forse troppo turnover. Insomma, ci sono delle responsabilità, è inutile girarci attorno. Poi il destino drammatico, drammatico o meraviglioso, degli allenatori delle squadre nazionali è che ti giochi veramente tutto in due partite, in tre partite. Il lavoro di due anni, di tre anni, alla fine e poi viene enfatizzato in positivo e in negativo da una singola prestazione, da un singolo errore. Forse ieri è esagerato col turnover ed è un peccato. Però l'importante adesso, al di là di quello che faremo in questo europeo, è che questa generazione, che di talento ne ha tanto, perché non siamo tutti ciechi, questa squadra ha tanto talento, insomma, cresca, che questi ragazzi crescano e che il calcio italiano torni a essere competitivo, come in parte secondo me già è. Mi sembra che la parte peggiore l'abbiamo lasciata alle spalle, spero. Grazie Pier, sentiamo domani. Ciao. Noi invece torniamo subito dopo una breve pausa. Non c'è il GR, vi ripeto. Avremo Maurizio Crosetti, imperdibile, audio forum di tutti questi temi che sono successi in settimana. E poi Charlie Recalcati, che è quello che ha iniziato l'operazione che De Raffaele ha finito con lo scudetto di Venezia, ma soprattutto è stato per lungo tempo e con ricchi premi CT della nazionale italiana, alla quale dopo Bargnani anche Gentile ha dichiarato: starò fuori per gli europei. A dopo. Bene, allora siamo tutti convocati. Convocati, ma proprio tutti convocati. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere su intelligenza artificiale, cyber security, cloud e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Sono le 15. Questa edizione di GR24 non va in onda perché è in corso un'assemblea della redazione. Il prossimo giornale radio alle 17. Devo stare seduto in panchina a guardare. O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Convocati. Oggi è il classico giorno in cui ho bisogno dei miei amici più cari. Maurizio Crosetti, Repubblica, buongiorno. Eccoci, ma siamo qua apposta, lo sportello Genta è riaperto. Senti Maurizio, vorrei fare una sorta di audio forum, ho ripetuto questa vecchia formula, per ripercorrere un po' i fatti di questa curiosa settimana. Innanzitutto della Juventus, ne hai scritto ovviamente magistralmente su Repubblica, un ritorno discusso quello di Agricola, un addio rumoroso e strano come quello di Dani Alves, e sullo sfondo in retroscena di quello spogliatoio di Cardiff con al centro la figura di Bonucci. Sentiamo Marotta. Particolare risposta a ciò che è venuto a Cardiff è semplicissima: io ero nell'intervallo negli spogliatoi come consuetudine, non è successo assolutissimamente niente, nemmeno quelle dinamiche che sono assolutamente considerate tipiche del mondo del calcio, che possono essere dei confronti duri tra giocatori. Non è successo niente se non il solito discorso che fa l'allenatore, che è quello di dare sicurezza alla squadra nell'ottica del secondo tempo, e quindi assolutamente sono versioni non veritiere. Chi è Pinocchio? Beh, io non ero nello spogliatoio, no. Ma quello che scriviamo lo controlliamo sempre. Emanuele Gamba è un collega molto informato, oltre che molto, molto bravo, e non è uno scriteriato, quindi quelle cose poi se siano successe proprio esattissimamente come si pensa, come si è detto, se qualcuno ha dato più sulla voce a un altro, lì ovviamente lo sa chi c'era. Però che la Juventus sia entrata in campo senza entrarvi a Cardiff, che nel secondo tempo fosse tutt'altra cosa, certo non può dipendere da un'eventuale litigata con Bonucci, certo. Ma nemmeno possono raccontarci che non sia successo nulla, certo, e quindi certo, dopodiché Maurizio, non hanno perso per quella la cosa. Probabilmente non hanno perso per quello, però quello può essere un fattore. Invece, quanto al ritorno di Agricola, allora, ha fatto molto discutere. La Juventus non ha spiegato questo ritorno. Ora, Agricola non ha ammazzato nessuno, però sappiamo, non è un nome qualunque, conosciamo i contorni di questa vicenda. La Juventus fa quello che le pare, giustamente, però forse in questo caso due righe di spiegazione andavano fatte. Sì, credo sia stato inopportuno, anche se legittimo. Il dottor Agricola non andrà a dirigere lo staff sanitario della Juventus, ma il centro medico a cui la Juventus è vicinissima e che di fatto controlla. Non è stato condannato in Cassazione, ma prescritto, attenzione, non assolto, era stato condannato in primo grado e assolto in secondo per abuso di farmaci e frode sportiva. In terzo grado la Cassazione ha prescritto questi reati, le ombre restano. La Cassazione ha cassato la sentenza di secondo grado. La Cassazione, esatto, ricordiamo, non giudica, però era chiaramente un procedimento. La Cassazione giudica la regolarità formale del procedimento. Il procedimento aveva dei vizi di forma, dunque ha cassato la sentenza, aggiungendo indizi di colpevolezza, rimandando tutto a secondo grado, procedimento che non si è potuto svolgere per prescrizione. Questo è il quadro dei fatti. Sì, vostro onore, le cose stanno come voi avete detto. Io sono sicuro che la Juventus non fosse dopata, lo dico chiaramente da tempo. Non vinceva quegli scudetti perché prendeva delle cose, ma certamente non ho mai ben capito, né io né soprattutto i giudici, perché somministrassero farmaci che non c'entravano con i bugiardini ad atleti giovani, sani, e perché dovevano prendere certe cose. Questo il dottor Agricola non l'ha mai spiegato ed è una delle ragioni per cui, anche oltre le sentenze, io credo non fosse opportuno richiamarlo. Ha 71 anni. Credo che la medicina sportiva italiana possa aver espresso altro. Comunque è legittimo, la Juventus è legittimo, ma può dire lui è il più bravo di tutti. Scudetti, la Juventus fa quello che vuole, però la Juventus poteva dire ha un profilo professionale perfetto per quel ruolo e a noi serve, punto. Va benissimo, fa quello che vuole. Non lo ha detto a noi chiaramente, ai giornalisti che hanno chiesto conto, anche senza virgolette ufficiali, la Juventus ha detto qualcosa, ha detto che il dottor Agricola era direttore sanitario di una clinica nota e illustre a Torino, che non farà il capo dello staff medico juventino, che è un incensurato e che fondamentalmente la Juventus non vede nulla di... Io credo che sia stato anche un modo in qualche maniera per risarcirlo di un decennio comunque di mal di pancia non da ridere. Poi comunque la Juventus è fatta così, cioè nel senso che quando batte il pugno sul tavolo lo fa perché sa che il tavolo non si rompe e quel pugno è solido, pugno dice, a casa mia faccio quello che voglio. Sì. Dopodiché resto dell'idea che non fosse opportuno, tutto lì, non anch'io, è morto nessuno. No, ma è esattamente il pensiero che ho anch'io, che ho espresso anche nei giorni scorsi. Strano anche l'addio, curioso però pure l'addio di Dani Alves, su cui risentiamo un altro Marotta. Sappiamo che bisogna accettare, certo rimane l'amarezza e il dispiacere per il modo con cui si è concluso la sua esperienza, però la Juventus è più forte, sopra la società non viene nulla, per cui stiamo già pensando come sostituirlo, valutando che la nostra forza è sia la società da una parte che il gruppo dei giocatori e dell'allenatore. Questo è un altro mistero della fede, È un mistero della fede, ma non credo assolutamente che questo sia successo per via dei tweet o di quelle frasi, l'intervista su Dybala. Cioè lui ha semplicemente ricevuto, semplicemente per modo di dire, una grande offerta da parte della squadra allenata da Guardiola, con cui ha vinto tutto al Barcellona. Forse può darsi che qualcosa non gli sia piaciuto, forse un professionista cambia, come la Juve prende i grandi campioni liberi, i suoi grandi campioni possono liberarsi ed andare altrove, è la stessa regola. Voglio dire, un Pogba lo prendi e lo perdi, un Dani Alves lo prendi e lo perdi, diciamo che tra i laterali da non perdere, secondo me quello da non perdere non è quello che sta a destra, ma quello che sta a sinistra. se proprio vogliamo dirla tutta, e devo anche dire che quest'anno, tra l'infortunio e un po' di rodaggio lungo, lui è stato, Dani Alves, fenomenale, un po' in uno spicchio di primavera molto intenso contro il certo. Monaco, con le due ma partite fondo formidabili. Tu un giocatore di 34 anni così io lo lascerei andare, Dani, no, cioè, ma in dubbio non tiene un giocatore che non vuole, non devo lasciarlo andare io, sì, ma non mi sembra una grave perdita, no, una però ti, perdita, ti no. dico, è un giocatore straordinario in quei due mesi lì, no? Può essere a 34 anni un giocatore straordinario in quei due mesi lì, nelle partite che contano, non eccetera, vinci, eccetera. Non provi a vincere la prossima Champions perché hai o non hai Dani Alves. Questo è chiaro. Lo fai se hai o non hai Dybala, se hai o non hai forse anche Alexandro, se hai o non hai Pjanic, ecco, però non Dani Alves. Senti, me. Maurizio, per chiudere sulla Juventus, come valuti questo momento del mercato? È davvero un tentativo di svecchiamento, di rivoluzione, di cambiamento, di ricostruzione, oppure c'è qualche altra idea? Perché io faccio vabbè, è presto, però faccio un po' fatica a leggerlo. Ah, io credo che alla fine almeno un grande colpo arriverà, i soldi ci sono, la Champions ha portato più o meno 100 milioni di euro, può darsi anche che ci sia una partenza eccellente, non so se Bonucci, non so se Marchisio, comunque uno dei senatori, dei grandi probabilmente andrà via. In questo momento, se pensiamo all'anno scorso, certo avevamo fatto quasi tutto subito, quest'anno sono un po' come il telefonino quando si mette in stand by e per non sprecare energia si spegne il display, però non è che sia staccata la spina per quello, il mercato è ancora lungo, e poi la Juve tutto sommato non è che abbia bisogno di ricostruirsi, ha bisogno certamente di un paio di giocatori per svecchiarsi un po' e per provare un'altra volta a infilare la testa nel portombrelli, sì. Fondamentalmente. Indovina qual sarà il prossimo tema? Il prossimo tema sarà Smamma Rumma, che forse diventa Torna Rumma. No. Esatto, hai indovinato, sei un gran facile. Furbacchione, Tavecchio. Ah beh, buono quello. Donnarumma va lasciato in pace, il problema è grosso, magari grosso quanto lui, e quindi spero che troverà una soluzione che non comporti traumi, però non si può evitare di valutare queste cose in senso negativo. Come l'avevi chiamato? Beh, prima era se va via Smamma Rumma, adesso pare possa essere Torna Rumma, forse. Torna Rumma, sì. Comunque pare. non è male Tavecchio che dice il problema è grosso quasi quanto Donnarumma. Mi è piaciuto, no. Abbastanza, non malaccio. Tua valutazione su questo caso. Allora, quello che il mio pensiero è questo. In un mondo normale io sono Donnarumma, dico, rimango, poi ho compiuto 18 anni il 25 di marzo, dico mi conviene restare 2 anni al Milan ben pagato, fare una bella clausola rescissoria alta, non ho pressioni, cresco, posso sbagliare come ha fatto ieri con la Repubblica Ceca, nessuno mi metterà in croce, e quindi questa mi pareva la soluzione più logica, ma di logico non c'è niente. Però se sono Donnarumma, ti dico la verità Maurizio, e ho 18 anni, sono nato il 25 di che ho compiuto il 25 di febbraio e ho minoraiola come procuratore, dico ascolta fai tu. Questo è perfetto, quello dice è perfetto, è uno di quei casi in cui il giocatore dovrebbe dire governo io, comando io e tu mi aiuti a guadagnare e a vivere meglio che si se può. Non hai 18 a 18 anni non puoi dirlo, se ti affidi a minoraiola sai che ne avrai vantaggi e ne avrai anche grossi grattacapi. È una situazione gestita male, in maniera improvvida, intempestiva, frettolosa e probabilmente anche un po' troppo venale. Sì. Quindi, ma da che parte sta l'errore secondo te? Scusa? Da che parte sta l'errore? Perché tu hai detto che è stata gestita male, ma in particolare da chi? Ma sia il Milan che Donnarumma hanno avuto fretta, il Milan di rinnovare un contratto che comunque scade tra un anno e il giocatore di far sapere che tra un anno lì non resterà, però è che glielo chiedevano probabilmente anche con molta insistenza, cioè forse il Milan poteva anche aspettare o lavorare con Raiola per un'architettura contrattuale diversa per l'inserimento di questa clausola. Cioè, mi sembra che abbiano fatto tutto in un giorno, ma sì, ce lo siamo detti sì. Con i miei capi dello Sport Repubblica, ci dicevamo alle 2 del pomeriggio, ci diceva ma oggi che facciamo? Secondo voi si risolve già Donnarumma? E io ho detto ma figuriamoci, se si risolve tutto già oggi, e dopo due ore, boom, il Milan dice non resta. Tutto troppo in fretta, dai. Sì, sì, hai ragione, su questo hai ragione, ci voleva un po' più di pazienza alla fine. Infatti non è finita, io credo. È stato talmente frettoloso che non è finito. Non è finito. Un'ultima cosa che ti chiedo, prima di tornare ai miei amici ascoltatori, 800240024, è spiegami... Trovi una spiegazione a questo flop di un under 21 che evidentemente troppo presto tutti avevamo già visto, con la coppa in mano, ne abbiamo parlato in questi giorni con Michele Uva, con la nuova generazione di fenomeni, e una squadra che sarà in gran parte quella dei mondiali dell'anno prossimo, e giocatori già pronti, e facce nuove, facce fresche, facce belle. E prendono sta scoppolaccia dalla Repubblica Ceca di Schick, tra l'altro bel giocatore, che oggi fa le visite mediche per la Juventus. Prima e li fa, Marino, e le fa allo J Medical diretto prossimamente. J Medical, bravo, lo sappiamo. Prima Marino ha parlato di enorme presunzione da tutte le parti. Tu di che parli? Marino Pierpaolo. Pierpaolo. Sì, certo, Pierpaolo. Io ho sentito. No, io credo che non bisogna mai andare a dire almeno la semifinale, andiamo per vincere, gonfiando il petto nemmeno quando sei bravo, e lo dice uno che era convinto che la Juve avrebbe vinto la Champions a Cardiff, sì, e lo ha detto facendo forse anche una brutta figura. Poi però questa ondata di sicurezza è montata a dismisura e si sa come sia andata a finire. Figuriamoci, ed era la Juventus, una squadra di bucanieri, figuriamoci una squadra di ragazzotti talentuosi che si convince di essere la favorita, di essere forte, di essere superiore ai pensieri di mercato, in un momento come questo, i telefonini che squillano i procuratori, non solo Donnarumma naturalmente, molti altri. Tutto questo frastuono li ha un po' imbambolati, sono forti, sono talentuosi, ed è comunque alla fine di giugno, per tutti alla fine di giugno, ma il calcio italiano a fine giugno non cammina, non corre, sì. E siamo sempre spompati, che siano i ragazzini o i vecchietti di Conte agli europei. Guardate che è difficile, forse per il calendario, forse per l'intensità, forse per come, per le abitudini, non so per cosa diavolo sia, ma per quanto riguarda poi le finali, analizziamo la storia, a parte le finali del 2000, dell'82, il 2006, i rigori eccetera. Però guardate bene quante coppe si vincono, nazionali, internazionali, con le finali a giugno o a luglio. E lo so, può sembrare una banalità, fa caldo per tutti, ma il calcio italiano è così, non sì, arriva mai praticamente pronto. Sai che la spiegazione che Eriksson ha sempre dato sui gli innumerevoli flop della nazionale inglese che ha allenato è stato questi, in quel momento lì giocano talmente tante partite che non ne hanno più, non so se poi stia tutto lì. Maurizio, ti ringrazio, ti abbraccio. Grazie fortissimo. Grazie. Ciao. Tra poco andiamo in Galles insieme col Sidecar. Abbiamo già prenotato, come i nostri ascoltatori più fidati sanno. Allora, torno agli ascoltatori. Walter da Verona, di che vuole parlare? Walter da Verona. Pronto, mi senti? Sì, come no, ciao. Mi fa piacere parlare con voi. Allora, io volevo parlare di questo nazionale Under 21. Ehi. Che non trovo assolutamente una squadra, cioè fino all'anno scorso si parlava di giocatori che non avevamo ricambio, che non riuscivamo ad avere buoni giocatori, tutto un colpo sono diventati campioni sti ragazzi qua. Senti, pronto? Sì, ti sento, dimmi. Pronto? Sì, ti sento Walter, ti sento, ti sto ascoltando. Allora, dicevi, questi giocatori li abbiamo sopravvalutati perché ad un colpo sono diventati campioni. Beh, però devo dire che in questa stagione diversi di questi giocatori sono stati campioni, aspettiamo, però sono stati protagonisti in Serie A. Mi riferisco a tutta la nidiata dell'Atalanta, Gagliardini, che poi è andato a fare protagonista anche in un Inter disgraziata, Belotti, che comunque ha sfiorato il titolo di capocannoniere. Insomma, sono reduci da una grande stagione di da titolari in Serie A come non capitava da tempo. Poi ripeto, ci vogliono le altre prove, una stagione positiva non basta, tutto quello che volete, però non possiamo dire che questa fosse un Under 21 qualunque. Gianfranco da Genova, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione, e in qualche modo mi ripeto sull'intervento, ma credo di dire qualcosa di nuovo. Abbiamo dimenticato l'Under 21 di Mancini, Vialli, I ragazzi di ora non è che non siano tecnicamente validi, ma si sono affacciati quest'anno per la prima volta alla Serie A, a differenza dei Vialli, Mancini, De Napoli, De Agostini, insomma i nomi li conosciamo tutti, che già avevano diverse stagioni e magari il valore tecnico era più alto. Sì. Un'altra cosa, brevemente, Agricola, risarcimento da parte della Juve, non so di che tipo, ma credo che sia un risarcimento. E nient'altro, cioè non sa per cosa, ma lei crede, sì, la pensa come così. Crosetti, va bene, va bene, esatto. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, obiezioni accolte, entrambe si sono affacciate per la prima volta in Serie A con grandi risultati, poi ripeto, il traghetto, questo storicamente il traghetto tra l'Under 21 e la Serie A è sempre stato un traghetto molto complicato. Allora, cambiamo argomento. Ho detto, oggi ho bisogno, classico giorno in cui uno ha bisogno di contornarsi di amici. Carlo Recalcati, ciao Charlie. Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Come stai? Bene. A Cantù. Sì. Ovviamente, Charlie Recalcati, allenatore di Cantù, ma è quello che ha iniziato l'avventura poi finita da Raffaele a Venezia, no Charlie? Senti, sì. Insomma, immagino tu sia stato felice di questo, sì, spirito storico. Sì, sì. Assolutamente, diciamo in assoluto, in particolar modo per Walter, perché veramente siamo sempre stati molto legati, abbiamo continuato a essere molto legati, poteva essere il rapporto, può essere il rapporto professionale, ma siamo amici, sono sì. amiche le nostre famiglie, le nostre mogli si sentono periodicamente, sistematicamente. Tra a breve passeremo una settimana tutti assieme al mio camp in Calabria, quindi vengo anch'io, posso? L'ora. Posso venire? Sì, sì, posso giocare? Sì, sì. Posso giocare? Puoi giocare, sì, tanto facciamo giocare anche il direttore del villaggio. Ah, quindi alla fine giocano tutti. Puoi giocare anche tu. No, ma io ho giocato. Io, no, io, lo so. Ero un buon giocatore, un discreto giocatore. Lo so. No, ascolta. Fabio Di Bella mi raccontava. Ti raccontava, Fabio Di Bella, sì, che no, insomma, no. Mi allenavo con no. le giovanili quando avevo tempo. Senti, Carletto, una cosa. Senti una cosa. Mi ricordi, perché io a me suonò strano. Il tuo addio a Venezia, perché tu insomma facesti bene a Venezia, poi lasciasti addio, il posto a De Raffaele, tra le contestazioni del pubblico che ti voleva. Ma sì, è stata una di quelle situazioni dove obiettivamente con il presidente, proprietario, sindaco Luigi Brugnaro stavamo lavorando, avevamo concordato assieme la programmazione, che era appunto quella che vedeva poi il passaggio a Walter De Raffaele nei tempi giusti come capo allenatore, perché era un allenatore che, insomma, l'ho detto prima, io stimavo e quindi volevo che anche fosse così. Era un allenatore che aveva sposato il progetto Reyer già da tempo, perché era da loro prima che arrivassi io. E quindi, siccome mi piace, mi è sempre piaciuto cercare di contribuire alla programmazione. Cioè, certo, ma volevi fare quello che hai fatto con Pianigiani. Sì, esatto, infatti era l'esempio che avevo portato, era proprio quello. E quindi devo dire che da quel punto di vista lì andava tutto bene. Poi dopo chiaramente siamo due personalità, diciamo, abbastanza forti, molto diverse, ognuno che non accetta troppo prevaricazioni, sì, e non rispetto dei ruoli, per cui insomma siamo arrivati poi che il nostro rapporto non era più tale. Adesso lui era giustamente il presidente, il proprietario, certo. Era lui che poteva decidere di interrompere un matrimonio di quel tipo lì, nel momento in cui io ho preso quella decisione, a seguito appunto di rapporti che si erano un pochino logorati, sono stato molto contento che abbia scelto comunque la continuità e direi proprio che questa scelta adesso è stata premiata e ha premiato tutto. Vabbè, però Carletto, l'universo adesso, e il mondo Reyer. Adesso te ne sei scelto un altro facile, a Cantù. Come si dice, il peggio non l'hai mai visto. Ma come va la storia? Beh, la storia è che io vorrei Se l'ho fatto per Venezia, vorrei farlo anche per Cantù, perché Cantù è casa mia, certo, perché è la mia società, è dove io sono cresciuto, dove vive la mia famiglia, e quindi vorrei contribuire, ecco, vorrei contribuire a portare delle idee, la mia esperienza, il mio modo di pensare, e il giorno in cui ho accettato, in un momento difficile per la pallacanestro Cantù, di salire su questo carro. Hai fatto molto bene. E io l'ho detto chiaro, però, che per me è quello che conta di più la pallacanestro Cantù e non tanto la proprietà del momento. Sì. Che può essere in questo momento Gerasimenko, prima Cremascoli, poi Corrado, in sì. futuro sarà qualcun altro. Mm-hmm. Però nella misura in cui io appunto devo capire che gli interessi vanno di pari passo. Proprietà, pallacanestro Cantù, nel momento in cui secondo me qualcosa non va, io scelgo la pallacanestro Cantù, è quello che sto facendo. Tutto chiaro, tutto chiarissimo, Charlie. Come sempre. Come sempre. Senti, un'altra cosa, un'ultima cosa, riguarda la nazionale. Prima Pardo parlava improvvidamente di basket, la nazionale. No, ma giustamente, insomma, una nazionale che sembrava destinata, come questa Under 21, a portarci grandi risultati e che fino adesso di grandi risultati non ne ha portati. Poi nello sport sappiamo bene come 1+1+1 non sempre fa 3. Le ragioni possono essere varie. È una nazionale cui dopo Bargnani ha rinunciato, anche Alessandro Gentile ha detto che non farà parte della nazionale, del gruppo degli europei, degli ultimi europei peraltro di Ettore Messina, che poi non allenerà più la nazionale. Insomma, sono diversi problemi. Sì, ci sono tanti problemi, effettivamente. Adesso io ho letto qualcosa, quindi non so esattamente se è stato Alessandro che ha rinunciato oppure se è una decisione di Ettore di non coinvolgerlo nell'attività azzurra di quest'estate. Ma io penso più la seconda che hai detto, ma magari sarà messa d'accordo. Ecco, penso anch'io. E ci sono molte incongruenze in questa attività, insomma, in quest'estate. E obiettivamente la prima, secondo me, è il fatto che il gruppo è stato sovraccaricato di responsabilità, di pressioni, perché a più riprese è stato detto miglior nazionale di tutti i tempi, deve fare risultati di tutti i costi. È storia della non solamente della pallacanestro italiana, ma anche dello sport italiano. Quando l'Italia parte così con tante pressioni, poi dopo non riesce mai a rispettare. Hai ragione. Invece quando parte un po' defilata, un po' sottotono, così sorprende sempre e fa vengono fuori le cose migliori di quanto ci si aspetta. Quindi l'errore di base, secondo me, soprattutto in occasione del preolimpico dell'anno scorso, era stato proprio questo. Sì, zitti e pedalare, poi vediamo. Questa è la nazionale, il gruppo che sta finendo, purtroppo, perché poi dopo certo. la vita è breve e quindi bisogna cercare di raccogliere in fretta. E chiaramente quelli che stanno completando il loro ciclo azzurro hanno iniziato con me. Tra un po' bisogna ricominciarne un altro, tu hai centrato esattamente il problema, perché si va per cicli, bisogna avere sarebbe un peccato se questo ciclo finisse con un bel pugno di mosche in mano. Carletto, grazie Charlie, sentiamo presto. A voi. Ciao, andrei avanti a chiacchierare, ma devo chiudere il programma ringraziando Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia ed Edoardo Lavezzari in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.